guardi, intanto stiamo parlando di una persona che usa le iperboli per sua caratteristica propria, è sempre stato un tratto differenziale per distinguersi o per farsi ascoltare, quindi mi pare che anche questa volta l'utilizzo di qualche decibel superiore alla media rientri nel suo costume. Dopodiché il fatto che lei parli ispirata da qualcuno o che ragioni solo di testa sua, questo rimane certamente uno dei dubbi e una delle vicende sulle quali nei prossimi giorni probabilmente scopriremo qualche cosa. Addirittura, cioè lei ieri ha fatto una nota molto secca definendo la linea della Santanchè, come l'ha definita lei? Si può dire per radio? Sì. Ho detto che la linea della Santanchè suggerita nell'intervista di ieri mi sembra sia una stronzata. Guardi, se la domanda è Berlusconi che le detta la linea, credo di no, Berlusconi non ha bisogno di esegesi fatta da terzi, ma magari se qualcuno interpreta una sensibilità di Berlusconi e la vuole palesare ai terzi prima che lo stesso Berlusconi la voglia manifestare, come dire, è un modo per mettersi in evidenza una volta di più, per far parte anche delle corti successive.